Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Per trasmettere dati in modo sicuro oggi si ricorre alla crittografia. Prendiamo per esempio un messaggio di posta elettronica. Con la crittografia il contenuto del messaggio viene convertito in un accrocchio incomprensibile di lettere e simboli in modo che se un estraneo dovesse intercettarlo non possa essere in grado di leggerlo. Tuttavia, se costui dovesse entrare in possesso anche della chiave di decretazione, lo potrebbe facilmente copiare e decifrare senza che il destinatario nemmeno se ne accorga. La crittografia quantistica, a cui gli scienziati lavorano da molti anni, è considerata la soluzione a questo tipo di problemi. Un bit quantistico, infatti, non può essere copiato impunemente. Qualunque interazione nel mondo dei quanti lascia una traccia, una prova nel nostro caso che il messaggio è stato manomesso. La crittografia quantistica è in realtà appena agli inizi delle sue applicazioni industriali. Lo scorso giugno ha registrato un progresso significativo, la prima trasmissione quantistica satellitare, un traguardo raggiunto insieme dall'Università di Padova e dal Centro di Geodesia Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana grazie al suo laser geodetico, uno dei più precisi al mondo. Ne parliamo con il coordinatore del gruppo dell'Università di Padova che ha lavorato alla ricerca, Paolo Villoresi. Buonasera Villoresi. Buonasera. Dunque Villoresi, allora ci faccia capire qualcosa di più di questa trasmissione quantistica, a cominciare dal vettore di trasporto, che non è l'energia elettrica come nelle mail, per esempio, ma è la luce. Trattandosi di comunicazione su grande distanza, in particolare con un trasmettitore in orbita, ovviamente la fibra ottica era improponibile, quindi un fascio di luce e in particolare e una sequenza di grani elementari della luce, cioè dei singoli fotoni, è quello che ottimizza questo tipo di comunicazione. Quindi il bit, questo qubit, questo bit quantistico, all'atto pratico è un quanto di luce, è un quanto di luce, grano elementare di luce, come stava dicendo. Sì, nel quale noi possiamo codificare uno stato interno, quindi quello che nel bit classico vale 0 oppure 1, grazie alle leggi della meccanica quantistica, tradotto in nello spazio di un singolo fotone, può essere 0 o 1 oppure tutte e due allo stesso tempo. Si crea questa sovrapposizione di stati. Un qualsiasi valore, praticamente un qualunque valore compreso tra 0 e 1 può assumere questo bit, più o meno. Ancora peggio, dal punto di vista purtroppo dell'intuizione, cioè può essere 1 e 0 allo stesso tempo con probabilità diverse. Va bene, perfetto. Ecco, per effettuare la trasmissione di questi quanti di luce, grani elementari di luce, voi vi siete serviti del laser geodetico che si trova a Matera, un laser molto potente e soprattutto molto molto preciso. Come si è svolto l'esperimento? Nella sostanza abbiamo mandato un treno di questi fotoni, di questi stati quantici, che da Matera hanno puntato un satellite dotato di retroriflettori che sono degli specchi particolari ma simili a quelli che ci sono nei catarifrangenti per esempio delle automobili o delle biciclette, e questi hanno la caratteristica di inviare la luce di ritorno però nella direzione che è fatta all'andata, e quindi in questo modo siamo stati sicuri che il nostro fascio ha ripercorso la strada verso Matera. Vi tornasse indietro il riflesso di questi fotoni che avete spedito verso i satelliti, e quindi lì li avete ricevuti e misurati in qualche modo. Abbiamo misurato la correlazione tra il pacchetto che è partito dal satellite e quello che è stato misurato, e questo è il risultato scientifico principale. Ecco, tra l'altro avete dovuto ricorrere a questo escamotage del riflettore sul satellite perché non esistono allo stato attuale dei satelliti attrezzati per ricevere comunicazioni quantistiche. Al momento né per ricevere né per trasmettere, qubit, però molte cose sono allo studio. Perché appunto si è capito che è una strada che può portare a delle interessanti applicazioni. Ecco, a questo proposito ci sono ormai le prime applicazioni, non siamo più esclusivamente nel mondo della ricerca di base o applicata. Sì, ci sono stati delle iniziative appunto imprenditoriali e anche spesso spin-off di università che si sono poi allargate e hanno per esempio fornito questa chiave che è servita nel controllo delle elezioni svizzere qualche anno fa, per anche lì autenticare durante i mondiali di calcio del Sudafrica delle comunicazioni e poi diciamo in campo più recente in questo campo c'è proprio un'iniziativa di collegare molte sedi di un'azienda americana tra l'Ohio e il Washington e allo stesso tempo un'iniziativa cinese assai ambiziosa che vuole estendere una rete di comunicazione sicura tra Pechino e Shanghai che rappresenta un investimento di oltre 100 milioni. Grazie Paolo Villoresi. È stato un piacere, arrivederci e saluti a tutti. E per chi volesse saperne di più, quantumfuture.day.unipd.it e poi naturalmente c'è l'articolo su Physical Review Letters del 20 di luglio. Grazie a tutti, appuntamento a domani. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento.